La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. In occasione dell'anniversario del 25 aprile, l'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al dibattito sul futuro della democrazia. Ospita ai nostri microfoni Paul Ginsburg, storico, autore del volume La democrazia che non c'è, editore Einaudi, e tra i protagonisti di Biennale Democrazia, la 5 giorni di dibattiti e lezioni che il Comune di Torino ha organizzato per discutere delle radici e del futuro della democrazia. Nella seconda parte della puntata vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario che racconta l'ultimo anno di guerra e gli avvenimenti che portarono alla liberazione del nostro paese dall'occupazione tedesca. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel domenica 26 aprile all'1:55, col titolo La guerra degli italiani 1940-1945, liberazione. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. Il 25 aprile del 1945, 64 anni fa dunque, dopo 20 anni di dittatura, con il ritorno della libertà e la piena affermazione dello Stato e delle istituzioni repubblicane, finalmente nel nostro paese tornava, come sappiamo, la democrazia, fondata sui principi cardine della separazione dei poteri e dell'equilibrio tra le diverse funzioni dello Stato. Molto interessante e opportuna appare a questo proposito l'iniziativa del Comune di Torino, che alla democrazia ha dedicato 5 giornate di incontri e dibattiti. È la Biennale Democrazia, che si chiuderà nella giornata di domani e che ha visto in questi giorni alternarsi in discussioni e dibattiti studiosi, esponenti politici, giornalisti e scrittori di diverso orientamento, ma anche semplici cittadini e studenti. Prendiamo per un attimo in prestito le parole di Amartya Sen, premio Nobel per l'economia del 1998, che definisce l'ascesa della democrazia di gran lunga l'evento veramente decisivo del secolo scorso. Sarei pronto a scommettere, osserva Amartya Sen, che in un futuro lontano gli studiosi non esiteranno a riconoscere la fondamentale importanza che ha avuto l'affermazione della democrazia come più accettabile forma di governo. L'idea di democrazia, letteralmente potere del popolo, è nata nell'antica Grecia più di 2000 anni fa. Nel corso dei secoli, la graduale affermazione della democrazia come efficiente sistema di governo è stata al centro di eventi di grandissima importanza, dalla promulgazione della Magna Carta nel 1215 alle rivoluzioni americana e francese del XVIII secolo, fino alla progressiva concessione del diritto di cittadinanza e di voto a tutta la popolazione adulta in Europa e Nord America nel XIX secolo. Ma è nel XX secolo che il concetto di democrazia si impone come forma normale di governo, alla quale ha diritto ogni nazione, in Europa, America, Asia o Africa. L'idea di democrazia come impegno e missione universale è il frutto del XX secolo. È in questo secolo che si ribalta la domanda che si erano posti nell'Ottocento i teorici della democrazia, se cioè un determinato paese fosse pronto per la democrazia. Dal Novecento in poi, la questione è divenuta un'altra. Un paese non deve essere giudicato pronto per la democrazia, ma lo deve diventare attraverso la democrazia. Siamo i ribelli della montagna, gli stenti e i pavimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge. Biennale Democrazia, la 5 giorni di dibattiti e convegni di Torino, si è aperta mercoledì scorso con l'intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ascoltiamo quel che ha detto il Presidente. La Costituzione repubblicana non è dunque una specie di residuato bellico, come da qualche parte si vorrebbe talvolta far intendere. I valori dell'antifascismo e della resistenza non restarono mai chiusi in una semplice logica di rifiuto e di contrasto. Sprigionarono sempre impulsi positivi e propositivi e poterono perciò tradursi con la Costituzione in principi e in diritti condivisibili anche da quanti fossero rimasti estranei all'antifascismo e alla resistenza. Perciò il 25 aprile non è festa di una parte sola. Le riflessioni di Torino sulla democrazia cadono nel centenario della nascita di un illustre torinese scomparso nel 2004, Norberto Bobbio, e a 25 anni di distanza dalla pubblicazione di uno dei suoi libri più noti e fortunati, che è Il futuro della democrazia. Gli interrogativi di quel libro sono ancora attualissimi. E qual è infatti lo stato delle attuali democrazie, delle promesse non mantenute, degli ideali cui questa forma avanzata di partecipazione e di governo non ha saputo dare risposte? In sostanza, qual è il futuro della democrazia? Quali minacce incombono su di essa? Ne parliamo con Paul Ginsburg, storico e intellettuale, attento osservatore delle vicende del nostro paese e non solo. Grazie, professor Ginsburg, per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Allora, ci dica, qual è la sua impressione da attento osservatore del nostro paese? Qual è lo stato di salute della nostra democrazia? Ma io direi sfortunatamente non buona. Credo che ci sono almeno due elementi di fondo che danno l'allarme, e forse più di due. È vero che una democrazia, lo dico subito, è mai perfetta, ma il conflitto di interesse, cioè il potere che il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, esercita sulla sfera mediatica, è una, o direttamente attraverso la proprietà o indirettamente attraverso i canali del RAI, è una cosa molto seria. E se pensiamo che questo controllo della televisione commerciale in grandissima parte risale al 1984, allora la democrazia italiana ha un problema culturale o di cultura di massa profonda. Il secondo elemento preoccupante è se riusciamo a mantenere o no l'autonomia del terzo potere, cioè quello dei giudici. Non sono i radicali, ma De Tocqueville, Mille e altri liberali che insistono che senza l'autonomia dei giudici la democrazia è sempre in pericolo. Questi sono i due punti lampanti, io direi, della situazione italiana. Ci parli un attimo anche della sua partecipazione al convegno di Torino, che è molto interessante. Lei domani mattina parteciperà in particolare a una sessione di studio, ce ne parli un attimo, qual è l'argomento? Grazie, domani mattina io ho una responsabilità molto grossa, cioè di far incontrare John Stuart Mill e Karl Marx, ovviamente non in persona, certo, ma attraverso i loro scritti. È poco conosciuto che verso la fine della sua vita Mill era interessato nell'internazionale, la prima internazionale di Marx, e aveva anche espresso approvazioni su vari scritti. I due uomini non si sono mai conosciuti, ma già nel mio piccolo libro Einaudi, La democrazia che non c'è, sì, li ho fatto incontrare citando sempre dai loro lavori. Allora domani mattina, penso alle 10:30, qualcosa così, si fa un altro passo, e con due attori che fanno Mille e Marx, io riempio le loro bocche con le parole scritte, non dette, e vedere come questo contrasto sulla democrazia, che è forte, perché Mill è un campione della democrazia rappresentativa pura, e Marx per una democrazia partecipata, diretta, più sul modello della Comune di Parigi del 1871. Dunque è una bella battaglia. Si rievoca anche, professore, la figura di un grande intellettuale italiano che è Norberto Bobbio. È uno dei suoi libri più fortunati, Il futuro della democrazia. È esattamente quello di cui stiamo parlando, un futuro, diciamo, con luce e ombre in qualche modo. Assolutamente. Lui ci ha sempre detto di stare attenti, perché la democrazia non era uno stato stabile, le dittature sì, le tirannie non erano sabbie mobile, ma la democrazia sì. E nel suo famoso libro Il futuro della democrazia lui si dimostra in più di un'occasione ottimista, se posso dire, per il futuro della democrazia. Scrive: siamo entrati nell'era della democrazia, definitivamente, questo nel 91 se non sbaglio, e addirittura in uno dei saggi che compongono il libro dice che siamo in una fase, credo che l'abbia scritto nel 75, della, in cui si passa dalla democratizzazione dello Stato, cioè più democratico lo Stato, alla democratizzazione della società, cioè che la società si riorganizza e diventa più democratica. A distanza di più di due decenni bisogna dire che questa cosa, la democratizzazione della società, non si è realizzato per nulla. La storia e la memoria. Ben ritrovati. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera in collaborazione con History Channel ripercorre l'ultimo anno di guerra e gli avvenimenti che portarono alla liberazione dell'Italia dall'occupazione tedesca. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel domenica 26 aprile all'1:55. Nel gennaio del 1944 l'impero tedesco e quello giapponese sono ancora in gran parte intatti, anche se hanno già perduto alcuni territori. L'obiettivo di Hitler è quello di resistere per guadagnare il tempo necessario a dotarsi di nuove armi, come i razzi a lunga gittata e gli aerei a reazione. Gli anglo-americani producono armi, carri armati e aerei in misura assai maggiore dei tedeschi e hanno già in linea i caccia Mustang e i Thunderbolt, considerati i migliori del conflitto. Possiedono assieme agli inglesi i grandi bombardieri strategici e stanno progettando la bomba atomica. I sovietici continuano a mietere successi e il 5 gennaio varcano i confini prebellici con la Polonia. In maggio riconquistano l'intera Crimea, riprendono di fatto tutto il territorio posseduto prima della guerra. E per accelerare la sconfitta tedesca, Stalin chiede agli alleati di aprire in Europa un secondo fronte, capace di alleggerire l'impegno dell'Armata Rossa. Americani e britannici, consapevoli della necessità di aprire il secondo fronte in territorio francese, sguarniscono le armate che operano in Italia per concentrare in questa imponente operazione la maggior parte delle loro risorse. Il 22 gennaio gli alleati sbarcano ad Anzio per colpire alle spalle i tedeschi attestati sulla linea Gustav. Se avessero il coraggio di sfruttare il fattore sorpresa, troverebbero la strada fino a Roma completamente sgombra. Ma il loro comandante prende tempo e cerca di consolidare la testa di ponte, consentendo in tal modo ai tedeschi e ad alcuni reparti della Repubblica Sociale di organizzare una resistenza violentissima. Alcune settimane più tardi, il 15 febbraio, gli anglo-americani commettono un altro errore bombardando l'antica abbazia di Monte Cassino. In aprile i giornali inglesi e americani ammettono apertamente che la campagna d'Italia è un fallimento. Solo in maggio i tedeschi sono costretti ad abbandonare Cassino, quando vengono aggirati alle spalle dalle truppe franco-marocchine che si muovono lungo la valle del fiume Liri. La linea Gustav di conseguenza crolla e le truppe alleate provenienti da sud riescono finalmente a soccorrere le forze immobilizzate ad Anzio da 4 mesi. Le truppe di Anzio, poste sotto il comando del generale americano Mark Clark, avrebbero il compito di tagliare la strada ai tedeschi in ritirata per annientarli. Ma Clark freme dal desiderio di entrare per primo a Roma e si dirige subito verso la capitale. La sera di domenica 4 giugno, le truppe di Clark entrano a Roma, accolte festosamente dalla popolazione. A 9 nord di Roma l'avanzata alleata prosegue a rilento. Tra il 10 e l'11 giugno gli angloamericani conquistano Viterbo, Tarquinia, Chieti e Pescara. Il 6 giugno le truppe alleate aprono finalmente il secondo fronte in Normandia, dove sbarcano in forze trasportate da quasi 5.000 mezzi navali. Ma le operazioni alleate non procedono secondo i piani prestabiliti. Le cattive condizioni meteorologiche sul canale della Manica creano difficoltà e i tedeschi si difendono strenuamente. Mentre le vicende militari attraversano questa svolta cruciale, all'interno dell'Italia gli eventi politici si susseguono velocemente e mettono in luce le difficoltà in cui versa la monarchia. Il 28 gennaio a Bari i partiti antifascisti del Comitato di Liberazione Nazionale si riuniscono a congresso. Comunisti, socialisti e azionisti auspicano la Repubblica. Democristiani, liberali e democratici del lavoro non sono così decisi. La mozione finale evita una spaccatura tra i partiti, proponendo l'abdicazione del re e il rinvio della scelta istituzionale a un referendum da tenersi dopo la guerra. Il 22 febbraio il premier britannico Winston Churchill dichiara alla Camera dei Comuni di non volere in Italia un governo formato dai partiti. Gli sembra più opportuno conservare il governo del re e di Badoglio, che ha sottoscritto l'armistizio e lo farà rispettare. Il presidente americano Roosevelt è di parere opposto. L'Unione Sovietica, prima e unica fra le potenze alleate, interviene a sostegno di Churchill e del re d'Italia, con il riconoscimento diplomatico del governo Badoglio. Due settimane più tardi, dopo 18 anni di esilio, Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista, torna in Italia da Mosca e applica la linea moderata dei sovietici, invitando i partiti a entrare nel governo Badoglio e chiedendo loro di rinviare al dopoguerra la questione istituzionale. Sia gli americani, sia i partiti italiani, sia lo stesso re non possono fare altro che dare vita a un nuovo governo Badoglio. Vittorio Emanuele III annuncia a malincuore che, dopo la liberazione di Roma, si ritirerà a vita privata, affidando la luogotenenza del regno al figlio Umberto. Il 24 aprile il nuovo governo Badoglio si insedia a Salerno. Un mese e mezzo più tardi, liberata Roma, i partiti impongono la sostituzione di Badoglio con una personalità socialista moderata come Ivanhoe Bonomi. Nella Repubblica Sociale Italiana, che fino al 4 giugno include anche Roma, i tedeschi dominano pressoché incontrastati. Il 15 giugno Otto Scorzeni, l'uomo che ha liberato Mussolini dalla prigionia del Gran Sasso, incontra Mussolini e lo trova pessimista e depresso. Gli sembra che da uomo di azione si sia trasformato in filosofo. Il 4 agosto gli alleati raggiungono i sobborghi di Firenze. I tedeschi, ritirandosi, fanno saltare tutti i ponti sull'Arno, tranne il Ponte Vecchio. In settembre, gli alleati decidono di fermarsi sulla linea gotica che, da Forte dei Marni, in Versilia, attraverso gli Appennini, raggiunge Rimini. Resteranno fermi tutto l'inverno. Il 9 luglio, il leader comunista Palmiro Togliatti parla in un teatro romano e propone un'alleanza con la Democrazia Cristiana, oltre che con i socialisti. Il 20 luglio, il Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana elegge Alcide De Gasperi suo segretario politico. Il 31 ottobre, Umberto di Savoia, ansioso di salvare l'istituto monarchico, propone che la scelta tra la Repubblica e la monarchia sia demandata a un referendum popolare che dà alla monarchia qualche speranza di sopravvivere, anziché affidarla a un'assemblea costituente, nella quale i repubblicani, molto probabilmente, potrebbero essere in maggioranza. I dirigenti del Partito Socialista e del Partito d'Azione, che fanno parte del governo, si preoccupano che la nuova Italia vada a destra e in novembre provocano una crisi ministeriale. Il presidente Bonomi si dimette, ma riceve subito dopo un nuovo incarico da Umberto di Savoia. Nella Repubblica Sociale Italiana, invece, l'unità fra i fascisti è solo apparente. Il nuovo Stato non ha nulla a che vedere con il regime mussoliniano finito nel 1943. Mussolini ne è il capo solo formalmente. in realtà è prigioniero dei tedeschi e dei fascisti più estremisti. Nella Repubblica Sociale la resistenza partigiana combatte tedeschi e fascisti. Le immancabili rappresaglie che seguono sono così violente da spingere lo stesso Mussolini a protestare con i tedeschi. Ma il colpo più duro alla resistenza italiana viene inferto dal generale britannico Harold Alexander, che il 13 novembre, dopo aver attestato le sue truppe sulla linea gotica, invita i partigiani a interrompere le loro attività, annunciando anche la sospensione degli aiuti e dei rifornimenti. Alexander commette l'imprudenza di comunicare tutte queste notizie per radio, informando in tal modo anche il nemico. Come conseguenza, le file dei partigiani si riducono da 80.000 a 50.000 unità. La storia e la memoria. Continuiamo il radiodocumentario. Mentre gli alleati avanzano sulla penisola italiana liberando le città dai tedeschi, le truppe anglo-americane avanzano a fatica sul fronte francese. Il 25 luglio, un mese e mezzo dopo il D-Day, gli alleati occupano solo una testa di ponte da Cherbourg a Caen e soltanto alla fine del mese i carri armati statunitensi riescono a sfondare le linee nemiche e a dilagare nelle campagne. Il 15 agosto 50.000 americani sbarcano nel sud della Francia, sulla Costa Azzurra, e avanzano quasi indisturbati lungo la valle del fiume Rhône. Lo stesso giorno Parigi insorge. E il 25 agosto la capitale francese è libera. Il 1 settembre il generale americano Eisenhower assume il comando delle forze terrestri, prendendo il posto del generale inglese Montgomery, e da quel momento la Gran Bretagna decade al rango di satellite degli Stati Uniti. Nei primi giorni del mese gli alleati raggiungono Bruxelles, Anversa e il Lussemburgo, ma poi prudentemente preferiscono fermarsi. I tedeschi hanno così la possibilità di riorganizzarsi e di contrattaccare nelle Ardenne in dicembre. A est i sovietici continuano con i loro grandi successi. Ormai la guerra volge al peggio anche per il Giappone. Nell'autunno del 1944 gli americani passano all'offensiva e riconquistano le isole Marianne. Il 12 gennaio del 1945, ultimo anno di guerra, l'offensiva tedesca nelle Ardenne si esaurisce. Da questo momento in poi, i tedeschi non saranno più in grado di creare alcun serio ostacolo alle armate alleate. Sul fronte orientale, i sovietici passano all'offensiva e il 17 gennaio entrano a Varsavia. In febbraio conquistano Budapest e attraversano il fiume Oder penetrando in Sassonia. Gli anglo-americani effettuano su Dresda, capitale della Sassonia, un terribile bombardamento aereo, durante il quale perdono la vita 25.000 persone. Nello stesso tempo, a Occidente, anche gli anglo-americani passano all'offensiva tra Nimega e Aquisgrana e, dopo due settimane di combattimenti, sfondano le linee tedesche a nord-ovest di Düsseldorf. Ai primi di marzo attraversano il Reno e occupano Bonn e Colonia. Il 30 marzo i sovietici si impadroniscono di Danzica, la città che nel 1939 era stata rivendicata da Hitler dando il pretesto alla guerra. Al contrario, in Italia il fronte rimane fermo lungo la linea gotica fino ai primi di aprile. A gennaio in Sicilia scoppiano violente proteste contro i richiami alle armi disposti dal governo Bonomi. Molti siciliani rifiutano di arruolarsi, sono stanchi della guerra e la sentono come un evento lontano ed estraneo. A Comiso, in provincia di Ragusa, le idee del separatismo siciliano hanno già fatto presa. Viene proclamata una repubblica indipendente e il Regio Esercito interviene per domare la rivolta. Intanto il movimento separatista comincia a organizzare anche una sua forza armata. In quegli stessi giorni a Bondeno, in provincia di Ferrara, le donne scendono in piazza per manifestare contro i rastrellamenti compiuti dai tedeschi e dai fascisti. I partigiani italiani continuano con le loro azioni, ma tra le varie formazioni cominciano a manifestarsi contrasti violenti e a volte anche cruenti. Il 7 febbraio in Carnia, i garibaldini della brigata Natisone, che operano agli ordini di un comando partigiano sloveno, catturano e uccidono 21 capi partigiani cattolici della brigata Osoppo, fieramente contrari alle mire espansionistiche degli sloveni sul territorio italiano. Nello stesso mese, i partigiani legati al Partito Comunista e al Partito d'Azione propongono di unificare tutte le forze militari della Resistenza, probabilmente allo scopo di controllarle meglio. Il generale Raffaele Cadorna, che è stato designato dal governo di Roma a comandare queste formazioni, prima si dimette per protesta, poi decide di riprenderne il comando, purché esse accettino di obbedire alle direttive degli alleati e del governo italiano del Sud. Tra il 4 e l'11 febbraio, a Yalta, in Crimea, si incontrano Churchill, Roosevelt e Stalin per chiudere accordi più precisi sulla futura sistemazione dell'Europa. Per quanto riguarda l'Italia, viene deciso che non sarà ammessa neppure come osservatrice alla conferenza internazionale che le Nazioni Unite terranno in aprile a San Francisco. Il Corpo Italiano di Liberazione, che nel settembre del 44 è stato ritirato dal fronte per essere riorganizzato, torna a schierarsi nel marzo del 45 lungo la linea gotica a fianco dei britannici. Ormai sia i comandi tedeschi operanti in Italia che Mussolini sanno che la fine della guerra è imminente e vorrebbero ottenere una resa onorevole. Il 3 marzo emissari del comando delle SS in Italia cominciano a condurre una trattativa segreta con gli alleati in territorio svizzero. E gli alleati, per saggiare la serietà dell'iniziativa, chiedono ai tedeschi di liberare Ferruccio Parri, uno dei capi della Resistenza, che è stato arrestato qualche tempo prima. Parri è liberato dai tedeschi, ma poi torna immediatamente a combattere con i suoi compagni. Il 13 marzo è Mussolini che, tramite il cardinale Schuster, arcivescovo di Milano, fa pervenire agli alleati una proposta di capitolazione, nella quale chiede l'incolumità personale per lui e per i fascisti repubblicani. Ma gli alleati esigono una resa incondizionata. Il 28 marzo un'ondata di scioperi si estende da Milano a tutte le regioni occupate. E il giorno dopo viene deciso che i partigiani debbono tenersi pronti per l'insurrezione. Finalmente il 5 aprile, dopo mesi di inattività, gli alleati decidono di muovere all'offensiva nel settore tirrenico e il 9 aprile nel settore adriatico. Le unità alleate avanzano su tutto il fronte senza incontrare molta resistenza. Il generale Karl Wolff continua a trattare con gli angloamericani per conto dei tedeschi. Il generale americano Mark Clark chiede ai partigiani di rimandare l'insurrezione. E il 16 aprile, mentre la Repubblica Sociale si va disfacendo, Mussolini raduna per l'ultima volta il suo Consiglio dei Ministri. Il 18 aprile a Torino inizia uno sciopero generale. Gli alleati entrano a Bologna il 21 e il 23 attraversano il Po. Gli avvenimenti che preludono alla fine si susseguono ormai senza soste. Il 25 aprile il Comitato di Liberazione dell'Alta Italia lancia l'ordine dell'insurrezione e a Milano ha inizio lo sciopero generale. Quello stesso giorno Mussolini si reca a Milano, nella sede dell'Arcivescovato, per trattare il passaggio di poteri con alcuni esponenti del Comitato di Liberazione, tra i quali il socialista Riccardo Lombardi e il democristiano Achille Marazza. Mussolini pensa che ci siano ancora margini per una trattativa, mentre Lombardi e Marazza si sono presentati nella convinzione di ricevere la resa incondizionata dei tedeschi e dei fascisti. Il duce poco dopo si allontana dalla riunione, dicendo che darà una risposta entro un'ora. Ma non lo farà. e l'indomani parte alla volta di Como, diretto al confine svizzero, nel tentativo di rifugiarsi in territorio neutrale. I partigiani insorgono. Passano in pochi giorni da 70.000 a 200.000 uomini. A Milano e a Genova gli anglo-americani arrivano il 28 aprile. A Torino il 1 maggio. Il 28 aprile Mussolini e la sua compagna Claretta Petacci sono uccisi dai partigiani in una località vicina al lago di Como. In quei giorni, secondo alcune stime, vengono uccise in Italia senza processo circa 15.000 persone. Il 29 aprile, mentre i rappresentanti dei comandi tedeschi in Italia firmano la loro resa al comando alleato di Caserta, i cadaveri di Mussolini, della Petacci e di altri gerarchi vengono esposti a Milano a Piazzale Loreto. Il 1 maggio i partigiani comunisti jugoslavi occupano Trieste e la Venezia Giulia. Si ritireranno dalla città giuliana 43 giorni più tardi, dopo aver governato con il terrore. Migliaia di cadaveri e di persone ancora vive sono gettate nelle foibe del Carso. La guerra si conclude anche in Austria e in Germania. L'11 aprile i sovietici raggiungono Vienna e il 18 Lipsia. Il 2 maggio vengono annunciate la conquista di Berlino e la morte di Hitler. Il 7 maggio la Germania firma la resa incondizionata. Pochi mesi prima muore il presidente americano Franklin Delano Roosevelt, uno dei protagonisti dello schieramento alleato, che non può quindi assistere alla fine della guerra in Europa e alla vittoria sul Giappone. Questa arriverà il 1 settembre, dopo il lancio dei due ordigni atomici su Hiroshima e Nagasaki, a 6 anni esatti dallo scoppio del secondo conflitto mondiale. Termina così una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Prima di chiudere, vi ricordiamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel domenica 26 aprile all'1:55, col titolo La guerra degli italiani 1940-1945, Liberazione. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Vittoria Mussini. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.